seguono sempre. Per chi di fuoco segnano la notte, per chi di gente in giro e non c'è. Ce l'hai sempre. Ti brucia, ti consuma i minuti di una sofferta eternità fatta di medie di calcoli. I misteri delle luci di notte, come abbracci di sole nel tuo cuore, la vita ha segnato confini e territori, ma non alla fantasia, alla tua idea di musica delirante e sgangherata, ombre nella città ti seguono sempre. Fuoco segnano la notte, cerchi di gente in giro e non c'è.